Passiamo la parola ai diretti interessati, nel senso Sandro, produttore di allevatore di salumi, produttore, allevatore di maiali e produttore di salumi, che da parecchi anni, insomma, che viene a Leo e condividiamo una serie di riflessioni rispetto anche al suo lavoro e alle trasformazioni del territorio. Sandro sta a 25 km da Milano e insomma, penso che ne abbia viste parecchie, però è anche, nonostante tutto, un agricoltore che noi definiamo resistente e che, non lo so, raccontaci tu un po' quello che sta succedendo a casa tua, insomma. Grazie, non è vero come si dice. No, io quando Paolo mi diceva, qualche giorno fa, ma ti ricordi che devi intervenire al dibattito che facciamo? Oh, mamma mia, cominciamo a avere qualche problema. Allora mi sono posto una domanda, ma parlando di Expo, parlando di ciò che gli sta dietro, il titolo. Ciò che stanno facendo gli amministratori, soprattutto del Comune di Milano, ma secondo me, sul discorso di una corretta alimentazione, di nutrire il pianeta, di trovare soluzioni innovative sui prodotti alimentari, sul riscoprire le tradizioni della cucina culinaria o dei sistemi di produzione di alcuni prodotti nostri storici, mi sembra che non c'è niente se non una grande cementificazione, effettivamente, come tutti hanno detto. E come tutti abbiamo sentito, non è quello lo scopo fondamentalmente di ottenere una grande esposizione su questi sistemi nuovi, su alternative, sull'educazione alimentare. No, qui non ne vedo. Vedo proprio effettivamente una motrice, diciamo, che comincia a partire e non si fermerà sicuramente dopo il 2015. Però ecco, mi domandavo, ma siamo davvero capaci poi effettivamente di governarlo questo Expo? Come abbiamo fatto su Torino, a quanto pare non ci siamo riusciti a quell'epoca, e sicuramente anche Milano, come anche tutte le altre esposizioni mondiali che città come Milano, come altre città europee o mondiali, hanno ospitato. Però una grande rammarico, un grande rammarico ho avuto nel cuore. Quando hanno cominciato anni fa uno studio sullo spostamento della Fiera di Milano, sul grande scalo merci ferroviario che hanno fatto, sulle infrastrutture, non ultima quella che passa da casa mia, 5 km, neanche 3 km sarà, della bretella lì della Malpensa, che va a collegarsi alla Milano-Torino. Ma va bene, Madocina, io non è che sono contrario che le infrastrutture urbane siano da vietare. Madocina, ogni tanto ci vado anch'io sulle strade e mi accorgo che effettivamente sono intasate. Ma è questo il sistema di sviluppo? Giustamente Benelli prima diceva, necessita effettivamente questo grosso polo di 750.000 abitanti su ancora Milano? Può anche essere, Madocina, New York ne ha non so quanti, 10 milioni, 20 milioni. Anche Città di Messico ne ha tanti, però probabilmente ci sono dei problemi, no? Diversi. Per cui è proprio il modello di sviluppo sociale che è sbagliato. Non abbiamo nessun aspetto di etica, ma soprattutto etica ambientale. Perché il problema qui dello sviluppo, che tutti parlano di sviluppo, bisogna fare una infrastruttura, bisogna fare un palazzone, bisogna fare la TAV di qua, bisogna fare la TAV di là, però eticamente è giusto. Ma eticamente, qui parliamo ancora anche di statistiche, no? Ma eticamente è ancora giusto che io mi mangio due polli e il mio vicino di casa? No. Eticamente è corretto che noi produciamo delle risorse ambientali, tipo dopo che trasformiamo in alimenti, che hanno una piccola nicchia di commercializzazione. Cioè, io adesso non sono contro né a Slow Food né a tanto male al Club del Papillon, che rispetto e condivido in certi punti la loro filosofia, però del mio prodotto che lo faccio, cioè, scusate, ma se non mi piace io non lo faccio, se mi piace lo faccio, per cui a modo mio lo faccio il mio prodotto, lo trasformo io. 20 anni fa, 20 anni fa, nel 1988, Delors, presidente della Commissione europea fece un rapporto che al fine della fiera il mondo rurale doveva cambiare. Doveva cambiare determinate logiche che il mondo rurale ha dato contro fino a quando sono poi arrivati i regolamenti comunitari di aiuto, dove le amministrazioni ci hanno mangiato, dove gli agricoltori ci hanno bene o male guadagnato, dove le organizzazioni sindacali, abbiamo chiesto al rappresentante, comunque ci hanno mangiato. Cioè sono queste le problematiche che poi noi dobbiamo rincorrere sempre il problema, sempre rincorrere. Questo perché? Perché alla fine della fiera il consumatore è abbastanza succube della televisione, della pubblicità. Questo perché? Perché ormai a trasformare prodotti alimentari costa. È inutile anche che ci nascondiamo dietro il fatto che dire il prodotto da filiera corta deve costare la metà dell'altro. Non può costare la metà, sì, costerà più o meno uguale. Ma però se deve avere un livello sanitario, un livello legislativo, un livello burocratico che non vi rendete conto, cioè alla fine della fiera il mio prodotto che lo faccio col cuore, con l'anima, col cavolo di terreno piccolo che ho lì a momenti 2 chilometri alla zona industriale, anzi 1,5 chilometri alla zona industriale, o dall'altra parte la strada che vogliono magari allargare o costruire, e magari non sistemano le strade bianche perché conviene farle asfaltare e non sistemare le strade bianche, e poi ho il mio prodotto con dei gusti naturalmente che magari soltanto l'1% o l'1 per mille della popolazione magari ne comprende quel gusto, che giustamente non piace viene buttato via, ma se piace viene consumato. E sicuramente non dei costi troppo bassi, ma docine, io il mio salame lo vendiamo 16 euro e mezzo il chilo, è alto, certo, c'è stato addirittura uno, oh, come è buono il tuo salame, te lo voglio commercializzare, te lo pago 7,50 euro. Cioè, ma sei qui a... scusate il termine. Allora, o ci rendiamo conto di ciò che sta dietro a un prodotto da filiera corta, o altrimenti non ha senso. E parlare di globalizzazione non ha senso dire sviluppiamo la filiera corta. Cioè, questo titolo dell'Expo, nutriamo il mondo, ma con cosa lo nutriamo il mondo? Con i prodotti a filiera corta? Dimentichiamocelo. Con cosa dobbiamo alimentarlo? Con prodotti da multinazionali che detengono fondamentalmente cosa? Il 99% del mercato, tutta l'immagine del prodotto come deve essere consumato. Fa niente che dopo ci costa in problemi sanitari, no? Perché abbiamo poi l'obesità, abbiamo problemi cardiopatici, eccetera, eccetera. Fa niente. Però nelle merendine che diamo ai bambini dobbiamo metterci dentro i grassi idrogenati lì, che non mi ricordo bene neanche come si chiamano, piuttosto coloranti, perché devono avere una shelf life minimo di 2, 3 o 4, 6 mesi. Ma come si fa? Ma poi voi avete semplicemente un prodotto che faccio io, no? Semplice, economico, eccetera, eccetera. La farina di mais. Farina di mais. La polenta che può far venire la pellagra se se ne mangia tanta, ma adesso praticamente ne mangiamo pochissima pro capite. Io certo, ci credo, mi semino alcune varietà, di cui una antica, come lo scagliolo, vado a macinare la pietra, e con delle problematiche, cioè quando vado a macinare, che magari c'ho tempo perché piove, cioè vado al mulino ad acqua, cazzolina, gli hanno cementificato tutto l'Olona, no? Sull'Olona, fiume Olona, tutto cementificato, un fiume cementificato, buona roba, no? un buon sistema. Problema che la ruota, quando c'è tant'acqua, naturalmente non riesce a caricare perché è tutta cementificata, cazzo, anche la ruota gira poco, per cui neanche quando ci avrei un pochino di tempo non riesco neanche ad andare a macinare a pietra, perché l'acqua, che ce n'è tanta, però non fa girare la ruota, come in periodi di siccità dove non c'è acqua e non gira la ruota. Comunque, vabbè. Però io faccio una farina, io gli do 6 mesi di teorica di consumarsi, preferibilmente entro, perché non è una data di scadenza effettiva. Però lì c'è dentro germe vitale, c'ha un gusto, c'ha delle caratteristiche. Ma io mi sono domandato come cavolo fa quell'altro mulino a livello industriale, o il nome magari della catena di distribuzione, vendrà 2 anni. 2 anni. Che poi non ce lo dicono neanche quando è stata macinata. Ci mettono su un numerino, lotto. Ma che cazzo è sto lotto? Ma io prima o poi avrò dei problemi perché sulla mia etichetta scrivo data di macinazione, da consumarsi vabbè dopo, ma sicuramente qualcuno verrà prima o poi a dirmi Tu non hai capito un cazzo di come si fa a tracciare il biglietto. Tu devi mettere un numerino. Non basta che tu metti sulla data. No. Tu, consumatore, non interessa al consumatore. Forse saremmo anche tra i pochi. Sono tu quelli che fanno filiera corta effettivamente, che mettono sulla data di produzione anche sui salumi che noi facciamo. Avete provato a guardare effettivamente, tranne forse il latte, ma no, neanche il latte c'era sulla data di munta, tranne soltanto quelli da filiera corta, che mettono munto il, perché altrimenti non ce l'hanno. Il latte è 4 giorni, 5 giorni, ah, però l'UHT possono andare 6 mesi, o anche un anno, se non mi ricordo più neanche quanto. Cioè, queste qui sono le cose che mi fanno pensare. Sto sviluppo, dove sta? Etico il sviluppo che si stanno facendo passare. Cioè, il fatto di dire abbiamo bisogno di uno sviluppo, va bene, ma perché dobbiamo andare tutti a Milano a lavorare? Non si può fare un officino di qua, un officino di là, una... No. Allora, abbiamo grosse fabbriche. Ce l'abbiamo ancora tuttora, no? Perché a quanto pare sono le prime che vanno in crisi. La Fiat... Fonderie, acerie. Ma chi è stato il grande pensatore negli anni passati a dire orco cane, lo sviluppo è dovuto all'industria? E il ferro dove andiamo a prenderlo? Lo facciamo arrivare. Abbiamo cercato anche di fare le colonizzazioni. Tra l'altro, la mia azienda agricola viene da un'epoca dove, che si chiama Cirenaica, dove è stata fatta la campagna di Libia, no? E certo, alla fine della fiera si poteva soltanto andare in certi paesi per recuperare certe risorse ambientali. E lì o si era contro o si era a favore, cioè fondamentalmente. Poi lì, quella zona lì era tutta proprietà di una grossa famiglia nobile e di conseguenza. Però sono queste qua, no? Anche qua lo sviluppo etico. Prima c'erano le guerre, no? Dobbiamo occupare perché dobbiamo avere le cose. Adesso, tanto ti ciulo, perché ti do gli OGM, che una bella ciulatina, ma basta, se resti legato sempre a me. E poi comunque no, il prodotto deve essere fatto così deve essere fatto. Sto Crescenza Usella, fattoria Usella lì, che dalla fine della fiera non so neanche cos'è, una mucca, una capra, una pecora lì, comunque vabbè, ma deve essere fatto così. Tu devi mangiare questo prodotto perché è così. Fa niente che dopo fra qualche anno ti ricoveriamo in ospedale, però deve essere fatto così. Cioè, questo Expo qua io non sono contrario, ma però quando mi ha detto, che il po', ma guarda, abbiamo fatto davvero un bel passo, no? Abbiamo fatto un polo fieristico che dovrebbe ospitarlo sto cosa. No, qualche anno fa ho letto, no, ma guarda che al polo fieristico si fa poco o niente, bisogna costruirlo. Vabbè, dobbiamo costruirlo, costruiamo. E poi? Ma dopo lo buttiamo giù. Ah, bene, interessante questa cosa qua, no? Ma questo qui è eticamente possibile, ambientalmente, socialmente, economicamente? Probabilmente sì. Io probabilmente sono io un povero agricoltore tapino che non capisco niente. È così, non c'è niente da fare. Come la politica. Io, madocina, 20 anni fa dicevo, che bello, è anche magari difficile, perché magari facevo anche lo scrutatore, no? Andavo là a scrutare nei seggi elettorali, c'erano tante preferenze. Però ero consapevole, davo la preferenza a Tizio Caio Sempronio, quello là mi stava antipatico, non lo votavo, quello là mi sembra intelligente, lo voto. No, adesso non puoi più. Ma neanche te, tra l'altro, ci toglieranno anche la possibilità di dare la preferenza alle europee, no? Così, chi decide? Tre. In tre sono che decidono. Chi deve andare a fare il rappresentante della democrazia? Qui noi siamo in democrazia. Va benissimo, siamo in democrazia. Fammi scegliere. Non mi fai neanche votare, momenti, perché tanto è quasi inutile. Cioè, sono queste le situazioni di uno sviluppo. Sono queste? Va bene, vuol dire che io sono fuori luogo, probabilmente, ma continuerò a essere un po' tacciato di dire che sono contrario a certe cose, ma sarò anche contrario sempre a certe cose. Ma però, a casa mia vorrei fare qualche cosettina che voglio io, qualche cosettina che vorrò rispondere e rispettare certe normative, certe leggi, certi regolamenti, certe buone essere in famiglia, perché alla fine della fiera, se vado bene io va bene lei, se va bene lui, l'altro. Se mano a mano io vado male, andrà male un po' tutto il sistema. Però l'eticamente sociale non si sta analizzando minimamente in questo sviluppo dell'Expo. Grazie. Grande Sandro. Alla fine, come sempre, gli agricoltori c'hanno la lucidità,